tu che rompi il coglione, è vero? Poi vai a dire a tua madre che rompi il coglione a casa tua, vero? Stronzo, di qua voce tua al telefono, Sei diventato come Dani Rossanna pure tu, vabbè. Che da domani ti piombo di telefonate, capito, stronzo? Tu mi hai detto quando ti ho telefonato oggi, Coglione, figlio di bagasse, drogato. Hai capito? Tanto è inutile che te fra mio fratello e non nessuno, hai capito? Vabbè. Perché io ti romperò i coglioni. Quando tu me rompi il barchino, io te rompo il telefono, hai capito? Ti faccio crepare a te e a quella grande bagasse, mamma tua! 200.000 lire non te lo più, hai capito? Poi qui crepare tu e quella grande bagasse, mamma tua. E cosa faccio, vabbè, per farti crepare? 24 3 3 6 4 24 3 3 6 4, ti faccio piombare di telefonata a casa tua, capito? Le faccio svegliare quella grande bagasse, mamma tua. Io telefono a quella grande bagasse, mamma tua. Quella grande bagasse, mamma tua. Adesso lo ricordo tutti quanti, 24, 3, 3, 6, 4, vedi, 24, 3, 3, 6, 4, da quella grande bagassona della madre, assieme a quell'altro amico suo più froscio di lui, che ti piace, parla, che domani mattina già schiata quella bagassona,